Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Se state masticando un chewing gum o state rosicchiando un'unghia o finendo quella pellicina, continuate così, chiamatemi perché ho buonissime notizie per voi. Le attività ripetitive che eseguiamo quasi senza rendercene conto in situazioni di stress vanno infatti a vantaggio del benessere del nostro cervello. Ad affermarlo uno studio dell'Università del País Basco. Se voi volete saperne di più, e io lo voglio, restate con noi perché in linea abbiamo il piacere di avere il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professore, buongiorno. Ben ritrovata Nicoletta, come sta? Io bene, mi stavo rosicchiando un'unghietta, ma professore, è strano, ma lo stress attiva automatismi che sembrano un po' allentare la tensione. Sì, lo stress in generale ci fa smaniare un po', ci dà un po' di movimento e questo serve per farci stare meglio. Pensiamo per esempio quando parliamo tendiamo già a gesticolare, il minimo stress di un'interrogazione fa sì che noi deleghiamo ai gesti parte dei nostri compiti cognitivi e poi muoversi durante lo stress può anche aiutarci a memorizzare. Questo succede in genere, ma in alcuni casi lo stress induce alcuni movimenti automatici. Per esempio, deglutiamo più in fretta. A volte induce qualche piccolo movimento del tutto involontario ripetitivo, è il caso dei tic. Ma molto spesso, e questo capita credo in chiunque, aumenta quei movimenti che sono parzialmente automatizzati e parzialmente invece volontari, come toccarsi il viso, mettersi le mani nei capelli, masticare. Ma professor Barbanti, perché così tanti movimenti indotti dallo stress riguardano, lei li citava, toccarsi il viso, i capelli, masticare, riguardano mani e bocca? Io amo dire uno slogan piuttosto semplice, che c'è una grande mano dentro il nostro cervello e in realtà anche una grande bocca. Se noi guardiamo come sulla cartina geografica posta sulla nostra corteccia del movimento e della sensibilità, c'è un'enorme rappresentazione della mano e della bocca che sono tra l'altro contigue, questo per due motivi. L'uomo con la mimica e con le mani evidentemente riesce a vivere in maniera sociale. Tra l'altro la bocca e la mano molto vicini perché finalisticamente non si perdesse nulla nel passaggio del cibo dalla mano alla bocca. C'è da dire poi che il toccarsi la zona delle labbra ha un riflesso molto arcaico, pensiamo alla suzione e al di là delle polemiche sulle sigarette elettroniche c'è da dire che molta gente trova sollievo portandosi sostanzialmente il niente tra le labbra. Ma c'è un altro aspetto importante, è che le dita e le labbra e anche la lingua sono ricchissime di terminazioni nervose, è come se noi mettessimo a contatto nel momento di maggiore tensione le nostre zone più ricche di nervi anche in senso buono, è come se noi facessimo una sorta di check, quello che si fa nelle macchine più avanzate entrando. E l'ultima cosa, se mi permette di concludere, sull'aspetto delle unghie, qua ci riagganciamo anche allo studio dell'Università Spagnola. Mangiarsi le unghie vuol dire due cose: da un lato portare le dita verso le labbra, e questo è scontato, dall'altro però una specie di bruxismo, e cioè stringere tra i denti le unghie. Ora non è senza dubbio un'apologia dell'onicofagia, così si chiama, però i ricercatori spagnoli hanno dimostrato che nel bruxismo, nel serrare i denti, che è la conseguenza dello stress, paradossalmente a volte si libera la dopamina, che è questo neurotrasmettitore del benessere, del piacere, dell'euforia, della decisione. Quindi il mangiarsi le unghie è un po' una via di mezzo tra lo stringere i denti e il toccarsi le labbra. Fortunatamente questo, che è un vizio, nella maggior parte dei casi può tendere a scomparire. Grazie professor Barbanti per essere stato con noi. Il suo intervento sarà sicuramente stato molto gradito dalle persone, sono tante che amano rosicchiarsi un po' le unghie quasi ad allentare la tensione. Grazie professore. Grazie a voi. Buona giornata. Sulla strada acquosa una luna affilata, tagliare i fili che legano le stelle. Spingo al cuore una lattina vuota e scopro che hai lasciato le unghie sulla mia pelle. Ma c'è anche il rovescio della medaglia. A proposito di unghie, in linea con noi abbiamo la dottoressa Sandra Lorenzi, direttore scientifico dell'Istituto Dermatologico Europeo di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Intanto vi ricordo che potete intervenire, seguirci, potete chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24, se siete rosicchiatori anche invece non, le unghie non le rosicchiate per nulla, potete seguirci su Facebook e su Twitter. L'hashtag di oggi è Fuori le unghie. Dottoressa Lorenzi, mettiamolo un attimo fuori, ma torniamo ai rosicchiatori. Rosicchiare le unghie, come spiegava il professor Barbanti, può dare sollievo, può essere piacevole, ma lascia il segno, indubbiamente. Alle unghie non fa bene. Diciamo che è una patologia tra l'altro molto frequente, pensi che interessa il 45% delle adolescenti e quasi il 60% dei bambini, quindi in realtà questo riflette ampiamente lo stato di emotività che induce il mangiare le unghie. Alle unghie non fa bene perché danneggia non soltanto la lamina, ma danneggia anche tutti i tessuti periungueali, quelli che poi chiamano alla fine come perionicofagia. E alla fine si dice che sono quelle pellicine intorno alle unghie, pepite o come, no? Bravissima, la cuticola. La cuticola si dice così. I dottori la chiamano così, la cuticola. Certo. E queste unghie, quindi il danno non è solo a carico della lamina ungueale, perché chiaramente se danneggiamo la cuticola danneggiamo la matrice, ma è anche chiaramente a carico di tutti i tessuti, quindi avremo poi quelle alterazioni proprio di crescita della lamina, tutte quelle belle onde che vediamo sulla lamina, la presenza di chiazzette biancastre che sono un difetto di cheratinizzazione della lamina e poi anche il rischio di causa di infezioni. Molte delle perionissi acuti, i cosiddetti patericci come li chiamano, sono proprio legati al mangiare le unghie e le pellicine. Certo, quindi smettere si converrebbe, smettere però è difficile, ma non impossibili. Gli inizi, come sappiamo, sono sempre difficili, ma con un po' di perseveranza i risultati arrivano. Dottoressa Lorenzi, ci aiuta con qualche consiglio? Servono, che so, gli smalti, i guanti, le palline antistress, la ricostruzione? Credo che non ci sia il metodo, ma ciascuno di noi, una volta presa la decisione, può provare, sperimentare. Bisogna essere convinti, però. Brava, infatti recentemente pensi che sono state sperimentate proprio delle tecniche comportamentali rapide di dissuefazione, sono simili a quelle praticamente che si utilizzano per il vizio del fumo, ok? E questo vale anche per l'onicofagia, però le devo dire che il trattamento dell'onicofagia è veramente difficile, questo soprattutto se si protrae anche in età adulta, quindi secondo le statistiche o secondo i nostri dati di osservazioni, bendaggi, applicazione di smalti, applicazione di sostanze amare non servono. Ci si abitua. No, bravissima, alla fine si finisce per mangiare di tutto. Ok. Invece devo dire che soprattutto nel sesso femminile o anche nel sesso maschile, se fatto in un determinato modo, l'applicazione delle unghie artificiali può servire. Ecco, lo che qua la fermo, dottoressa Lorenzi, ma se uno ha delle unghie maltrattate, brutte, rovinate dal rosicchiamento e si fa la ricostruzione, poi cosa succede? Allora, se chiaramente il danneggiamento e l'aspetto della lamina è legato al rosicchiamento, se io elimino il trauma, io avrò una lamina che poi cresce sana, ok? Ma questo va fatto chiaramente solo per un breve periodo di tempo, per il tempo necessario alla lamina di crescere, 4 mesi, non di più, 3-4 mesi, che poi è quello che è consentito di solito nella ricostruzione della lamina ungueale, non bisognerebbe tenere le unghie artificiali per più tempo. Ecco, ma quando tolgo questa ricostruzione, com'è la mia lamina? Soffre o è ritornata bella? No, la mia lamina sarà praticamente all'inizio di quella che è una nuova crescita. Sì. La mia lamina non sarà sicuramente bella, perché poi una lamina per essere bella va idratata e va nutrita. E un'unghia artificiale non permette questo. Allora, comunque questa potrebbe essere una soluzione, basta che sia limitata nel tempo. Tre o quattro mesi, ricordiamoci questo spazio di tempo. Il signor Nero Wolf, il grande investigatore, Vittorio Alfieri, Contessa Vittoria Alfieri. Scusate per i modi poco urbani, ma morivo dalla voglia di parlare con voi. Sì, lo so. Davvero? E perché? Cara contessa, è per via delle unghie. L'inchiostro dei nastri delle macchine da scrivere si infila dappertutto. Urbano, volevo farti vedere una cosa. Cosa? Chiudi gli occhi, ho una sorpresa per te. Sì. Apri. Tadam! Ma cos'è? E sono le unghie finte che mi ha regalato Giovanna, che cosa ne dici? Ma che sembri Freddy Krueger! Lunghe, curate, naturali, sbaltate oppure corte, mangiucchiate, trascurate, sono lì da guardare, guardatevele anche voi e da interpretare, perché le unghie parlano molto di noi, di quello che facciamo, e noi parleremo di loro e lo faremo partendo da tre parole. La prima è consistenza. Dottoressa Lorenzi, quelle delle mani, le unghie delle mani sono più fragili rispetto a quelle dei piedi, che hanno invece spesso il problema opposto, sono spesse o si spessiscono. Perché sono più soggette chiaramente a traumatismi essendo dentro le scarpe. Le unghie delle mani invece sono più spesso a contatto con tutto ciò che noi tocchiamo, dato l'attività prensile e tattile che hanno, e soprattutto il contatto ripetuto con l'acqua, che ha un grosso potere di disidratazione. E questo comporta sicuramente un aumento della fragilità, di quella che viene definita fragilità idiopatica, che è quella che osserviamo più frequentemente col passare del tempo. Consideri che rappresenta il 20% della patologia ungueale nel sesso femminile dopo una certa età, legata quindi sì al contatto con l'ambiente esterno, legata comunque anche a problemi a cui noi donne sono soggetti, quali la menopausa, quindi la diminuzione del contenuto in estrogeni e di conseguenza il contenuto in lipidi della lamina stessa. E dopo la consistenza guarderemo la forma, curve, piatte, quadrate, arrotondate. Nel tempo le unghie possono cambiare, dottoressa Lorenzi? Le unghie possono cambiare perché riflettono il nostro stato di salute. Consideri che ci sono delle vere e proprie alterazioni morfologiche che inducono verso una diagnosi di patologia d'organo. Consideri che questa osservazione è conosciuta fin dall'antichità. La medicina indiana e cinese hanno proprio sviluppato una vera e propria psicodiagnostica basata sull'osservazione delle unghie. Quindi ci sono delle malattie epatiche, malattie dell'apparato respiratorio, che si traducono proprio in modificazione di forma e di consistenza della lamina stessa, ancor prima molto spesso della patologia d'organo. Quindi, dottoressa, occhio a quale forma? Allora, la forma deve essere praticamente una forma leggermente arrotondata, non eccessivamente arrotondata. Quando diventa molto arrotondata, le cosiddette unghie convesse, sì. Si di solito denotano dei problemi praticamente respiratori e cardiaci. Invece le cosiddette unghie a cucchiaino, che sono quelle concave, sì. Quelle pallide, sono di solito riconducibili a problemi di anemia. Quindi tenete in mente queste due forme e arriviamo alla terza parola, colore. La prima, ricordo, era consistenza, la seconda forma, il colore, l'unghia sana e rosata, ma dottoressa, il colore a volte non è uniforme, ci sono dei puntini bianchi più scuri, la lamina, che possiamo così descriverla come la faccia dell'unghia, può assumere anche sfumature diverse che si discostano dal colore iniziale. Dottoressa Lorenzi, anche in questo caso, a che cosa dobbiamo prestare attenzione? Ma senza voler entrare troppo nello specifico diagnostico, io direi di considerare i grossi cambiamenti morfologici. Sì. Se noi siamo abituati a vedere un'unghia rosata, se la vediamo di colore giallastro, o siamo dei forti fumatori, allora abbiamo la nicotina che ci pigmenta la lamina, oppure possiamo pensare a un distacco della lamina dal suo letto ungueale e quindi un'onicomicosi. Una forma praticamente traumatica, delle macchiette praticamente biancastre generalmente, quindi chiazze, macchie bianche sulla lamina, di solito non sono le bugie come ci dicevano, hai raccontato la bugia e non è neanche la carenza di calcio come si dice, ok? Il calcio c'entra veramente molto poco con l'unghia, è presente in una piccolissima percentuale, vero? Bravissima. E quella in realtà o è legato, le macchie bianche sono in realtà legate o effettivamente a dei manicure particolarmente aggressivi, e quindi qui rientriamo sempre nel concetto del distacco della cuticola, ma possono essere in realtà anche segni più profondi, ci sono delle patologie epatiche, alterazioni importanti dei livelli dell'azotemia che possono riflettersi con alterazioni. Guarda quanto di raccontano queste unghie, a guardarle così non si direbbe. Allora voi osservatele, guardate la forma della lamina, il colore, anche la superficie, chiamateci intanto che vi guardate le dita della mano sinistra, componete con la destra o viceversa se siete mancini il nostro numero verde e raccontateci le vostre unghie. 800 24 00 24, ricordo l'hashtag di oggi, fuori le unghie. Tu mi tratti come fossi un cane, come un gatto, tu sfavilli gli occhi tuoi. Le unghie sono artigli che dormono. E a proposito di artigli, parliamo di un artiglio in particolare, l'artiglio del diavolo. Si chiama così, ma il diavolo non c'entra nulla. In linea con noi abbiamo il nostro dottor Luca Voledo, naturopata. Buongiorno. Buongiorno. A proposito di unghie, vede? Eccolo qua. Parliamo dell'unghia del diavolo, che in realtà è un artiglio. In realtà è un artiglio, in realtà non è neanche un artiglio vero, ma è il nome volgare di una pianta che si chiama, il nome latino, Arpagophyton procumbens. È una pianta africana nominata artiglio del diavolo perché ha dei frutti con delle escrescenze, degli uncini che ricordano gli artigli del diavolo. Non le piace tanto? Come? Non le piace tanto l'artiglio del... Mi piace moltissimo, nonostante questo nome un po' minaccioso. In realtà è una pianta benefica, utilissima, tradizionalmente utilizzata in Africa, appunto, da cui arriva come antinfiammatorio, antidolorifico, e ormai conosciuta da molte decine di anni anche dall'erboristeria occidentale, dalla fitoterapia che conosciamo noi. Una pianta davvero preziosa, una dei migliori fitoterapici per contrastare infiammazioni e dolori, soprattutto dell'apparato muscoloscheletrico. Non si usano però i frutti, che sono quelli che hanno gli uncini, ma si usano le radici. Quindi gli uncini li lasciamo lì dove sono? Li lasciamo lì solo per dare il nome alla pianta. Ci sono delle controindicazioni per questo artiglione? Poche. Spesso vanno menzionate, ricordiamole come sempre. Le ricordiamo, è una pianta tutto sommato piuttosto sicura, potrebbe dar fastidio a chi ha delle difficoltà digestive o addirittura è controindicata in chi soffre di ulcera, e non andrebbe presa se non con la supervisione del medico curante da chi assume alcuni tipi di farmaci come gli anticoagulanti e alcuni farmaci per il cuore come gli antiaritmici. Quindi parlatene con il vostro medico, ma è un antidolorifico? Antidolorifico, antinfiammatorio, molto indicato in situazioni come artriti, mal di schiena, dolori articolari. Sembra già che mi faccia bene. Senta, dall'artiglio del diavolo invece torniamo alle nostre unghie, che a volte vorremmo proprio forti come artigli, che invece si spezzano. Dottoressa Lorenzi, la fragilità delle unghie, lei l'ha anticipato, è un cruccio tipicamente femminile, anche perché gli uomini non se le fanno crescere, poi siamo spesso noi donne a usarle per i lavori domestici, laviamo a contatto con i detersivi, eccetera. Ma, dottoressa, la fragilità può essere la spia di una dieta non equilibrata, tradire ad esempio la carenza di alcuni nutrienti? Diciamo che questa condizione si realizza in realtà in situazioni particolarmente estreme e importanti, anche se devo dire quando uno ha una fragilità particolarmente importante della superficie ungueale e a questa si accompagna anche poi una fragilità o un'alterazione degli altri annessi importanti che noi abbiamo, che sono i capelli, è giusto in realtà fare delle indagini in tal senso e quindi richiedere la valutazione di alcuni oligoelementi importanti come il ferro, lo zinco, il potassio, il magnesio e che che sono quelli oligoelementi che rientrano in maggiore quantità nella costituzione di questi annessi, quindi unghie e capelli. Quindi, dottora Voledo, le do ferro, zinco, potassio e magnesio. Sono nutrienti amici della salute delle unghie e anche dei capelli. Dove li andiamo a trovare? Beh, in una miriade di alimenti, vediamo quelli in cui sono presenti in maniera più ricca, ma soprattutto oltre che ricca, biodisponibile, cioè in una forma facilmente assimilabile dall'organismo. Sì. E pensando per esempio al ferro, che potrebbe essere implicato, il ferro si trova, come molti sanno, nelle proteine animali, nelle carni, nella carne di cavallo, di manzo, nella bresaola, anche nelle frattaglie o nei molluschi. Ma chi non mangia proteine animali, carne? Chi non mangia carne, proteine carne? Animale può ricorrere a fonti vegetali di ferro, in particolare le verdure a foglia verde, dicendo però, questo va detto, che insomma, piaccia o meno, si tratta di ferro meno biodisponibile, anche se hanno un grande contenuto, spesso le verdure a foglia verde, non è una delle forme più assimilabili di ferro per l'organismo. Per cercare di renderlo più biodisponibile, si può utilizzare il succo di limone, che con l'acido citrico e la vitamina C rende il ferro dei vegetali più disponibile per l'organismo. Zinco? Lo zinco è un altro minerale interessante per le unghie, si trova anche qui con una certa biodisponibilità nel pesce, nella carne rossa, ma anche nei cereali integrali, nei legumi, l'integrale va sempre meglio, nella frutta secca, molto interessante. Lo zinco è centrale per il benessere dei capelli. Anche qua va detto che lo zinco dei vegetali è un po' meno disponibile, perché si lega all'acido fitico, che forma un complesso insolubile che non viene bene assorbito. Senta, lei, abbiamo parlato di nutrienti e quindi da assumere con la dieta. Lei ha un'erbetta, come si dice, magnifica per le nostre unghie? Sì, un'erba e ancora di più invece un altro minerale che è molto poco noto. L'erba è l'equiseto, ma ci interessa in particolare dell'equiseto il contenuto in silicio. E il silicio è un minerale poco presente nell'organismo, ma per le unghie meraviglioso. E quindi consiglio una integrazione, un utilizzo di un integratore a base di silicio organico, e vedete che nel giro di alcune settimane le vostre unghie vi ringrazieranno. Grazie, noi ringraziamo lei, dottora Voledo, grazie a voi, per essere intervenuto. La dottoressa Lorenzi rimane con noi. 800 24 00 24. Unghie delle mani, ma occhio, parleremo anche naturalmente delle unghie dei nostri piedi. Mercati, meteo e poi di nuovo qui. Essere e benessere. Vi siete guardati con attenzione le vostre unghie? Consistenza, forma, colore? In linea con noi abbiamo la dottoressa Sandra Lorenzi, che ci dà una mano a leggere che cosa le unghie raccontano di noi e anche della nostra salute. Dottoressa Lorenzi, è sempre lì? Sì. Lei non si è mai mangiata le unghie? No. Mai? Neanche da quando era piccola? Mai. E pensi che avevo, che ho in realtà un padre che si è mangiato le unghie fino a 72 anni. Lei non è riuscita a farlo smettere? No, non ce l'ho fatta. Fulvia, dalla provincia di Ravenna. Buongiorno. Fulvia? Sì, sono qua. Eccola, buongiorno, non la sentivo. Mi dica. Buongiorno. Buongiorno. Allora, già la dottoressa Lorenzi ha risposto a tantissime è brava, mie domande. È brava, parla anche senza, prima del tempo, risponde. Ok, e la mia domanda comunque era riferita alle unghie, alla fragilità delle unghie delle mani, nel senso che si sfaldano. Ho messo in collegamento, come sapevo già, i capelli alle unghie, però io anni 60, ho 60 anni, i miei capelli ultimamente sono molto migliorati. E le unghie? Le unghie delle mani invece no. Dottoressa Lorenzi, ci mettono un pochino di più le unghie a rimettersi in forma? No, c'è un problema in realtà di fondo, e questa è una cosa che si deduce dagli ultimi studi di valutazione sulla fragilità ungueale, nel senso che sono sicuramente importanti tutti gli apporti nutritivi che noi diamo, e quindi bellissimo il discorso dell'introduzione del ferro, del selenio, ma le unghie hanno bisogno di essere idratate. Cosa bisogna fare allora? Di cui noi ci dimentichiamo spesso. In realtà si è visto poi che tra le varie sostanze utilizzate ai fini idratanti ce n'è una che ricopre una importanza notevole, che è l'urea. Quindi sì alle creme l'urea, sì a quei prodotti presenti in smalto che contengono praticamente urea, sia a quei prodotti idratanti che contengono l'equisito, cioè noi applichiamo sostanze sulla lamina ungueale, perché la lamina ungueale ha bisogno di essere idratata. Un po' come la nostra pelle. Bravissima. Come facciamo? Usiamo il balsamo per i capelli, le maschere, usiamo le creme per il viso, anche le unghie, poverine, hanno voglia di essere nutrite, hanno bisogno di essere idratate. Sì, e hanno bisogno proprio di prodotti specifici, cioè la semplice crema idratante che noi utilizziamo per le mani contiene in realtà delle molecole troppo grosse che che la lamina non lascia attraversare, quindi la lamina ha bisogno proprio di specifici prodotti e non agli smalti indurenti, assolutamente, ma non per gli smalti. Pensi che c'è uno studio in realtà inglese che dice che lo smalto in un certo senso può aiutare la fragilità della lamina, perché è come una barriera e impedisce in un certo senso la disidratazione. Il problema è l'acetone, perché noi poi con lo smalto lo dobbiamo rimuovere. E certo. Quindi siccome lo smalto è un solvente non c'è niente da fare, dobbiamo utilizzare, cioè lo smalto è una resina, dobbiamo utilizzare un solvente, per quanto ci siano acetoni che non contengono acetone o ammorbiditi con l'olio di mandorle, lo smalto ha un potere disidratante molto importante. Senta, ma lei le lacca le unghie o no? Le smalta oppure no? Io le lacco nelle occasioni particolari. E di che colore? Uso i trasparenti. Trasparenti, io adoro il rosso. E quindi alla nostra amica possiamo dire di idratare, ma lo diciamo a tutti, anche agli uomini, di idratare, e l'idratazione perfetta si ottiene con l'urea, sì. Giusto? Andiamo ad Anna che ci chiama da Monza, poi Marco da Prato e Paola da Napoli, e poi ci occuperemo naturalmente anche delle unghie dei nostri piedi, ma nel frattempo poi faremo anche un po' di ginnastica per le nostre mani, perché non ci occuperemo solo di unghie. Quindi attenzione, se avete delle unghie molto belle ma le vostre mani vi danno dei piccoli problemi, sono un po' stressate, le usate un po' malamente, restate con noi. Intanto Anna, buongiorno da Monza. Buongiorno Nicoletta, la seguo sempre appena posso. Grazie, Anna, lei fa molto bene. Grazie. Grazie a lei. Il mio problema è questo, problema se si può chiamare tale. Ho avuto per un periodo abbastanza limitato, però mi ha preoccupato, un'unghia della mano destra, sì, del dito medio, che cresceva con un'onda abbastanza importante, non eccessiva, ma io sono un po' maniaca e quindi mi preoccupava. Mi ero sottoposta a delle cure di antibiotici per degli impianti che ho dovuto fare nella mia bocca per un periodo abbastanza lungo. Dopodiché l'unghia, ho smesso gli antibiotici, conduco una vita normale, non fumo, eccetera, eccetera, mi è ricresciuta in maniera normale, è sparita quest'onda che c'era. Volevo solo sapere se è riconducibile a qualche problema fisico, farmacologico. L'unghia con l'onda, grazie. L'unghia con l'onda di Anna da Monza, buongiorno, grazie ad Anna. Dottoressa Lorenzi, c'è una relazione tra farmaci e salute delle unghie? Allora, quello che nel mio immaginario, sì, quello che descrive la signora è quella che viene definita come linea di Bo. La linea di Bo è in realtà un solco particolare che si produce quando la matrice, quindi la radice dell'unghia, riceve un urto, soffre, sì, ok? E quindi in quel momento smette di crescere e poi, chiaramente, passato l'evento traumatico, rinizia, e quel solco sta a significare che è successo qualcosa in quel particolare momento. Sicuramente un peggioramento dello stato di salute, l'uso di determinati farmaci si ripercuote in maniera importante a livello della lamina ungueale, quindi a livello della matrice, e quello è sicuramente stato l'evento traumatico. Sì, è riconducibile. Allora, un ascoltatore mi scrive: scusate, mi sono collegato ora, ma cosa sono le lunette bianche alla base delle unghie? Me lo immagino un po' come il ragazzo che arriva tardi a scuola o insieme agli amici e dice: che cosa stavate dicendo? Vogliamo rispondere anche a questo ascoltatore un po' ritardatario sulle lunette bianche alla base delle unghie? Che cosa sono e perché possono sparire? La lunetta bianca in realtà alla base della lamina ungueale è ciò che noi possiamo vedere della nostra matrice. Quella è una parte di matrice, di radice dell'unghia. Una parte è coperta ed è quindi sotto la pelle, sotto la cuticola, e una parte è scoperta ed è quella che la lamina ungueale lascia trasparire dal letto. Non tutte le persone ce l'hanno, ma in realtà è una differenza anatomica, è una variazione anatomica che noi abbiamo, ma come penso abbiamo di tanti altri organi, certo, o strutture. Alcuni hanno una cuticola molto più alta, quindi non si vede la lunula, altri invece hanno una lunula. Ma anche se non si vede, anche se non si vede, c'è. Allora, abbiamo Marco da Prato. Marco, buongiorno, prima delle strade. Buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno. Lei ce l'ha la lunetta? Allora, io sì, ho la lunetta solo nei due pollici, basta, nel resto delle unghie no. Vabbè, almeno nei due pollici ce l'ha. Marco, che cosa ci voleva dire? Niente, volevo dire che l'unico problema che ho io è che le unghie me le taglio, però non con la bocca, ma bensì con le stesse unghie, non solo le unghie delle mani, ma anche quelle dei piedi. E quando lo faccio mi rilassa tantissimo. L'unica difficoltà è che sia mia moglie che mio figlio mi riprovano di questi tipi. Fanno bene, dottoressa Lorenzi, che dice? Beh, carina, no, perché io in realtà ho visto anche dei pazienti che si mangiano le unghie dei piedi, ok? Quindi possiamo dire che non soffrono di mal di schiena, sono belli flessibili, E sì. Quindi grazie a Marco, noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi torniamo subito dopo insieme, tra poco. Essere e benessere. E noi invece siamo tornate subito, perché in linea abbiamo Paola da Napoli. Buongiorno Paola, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, complimenti per la trasmissione. Grazie. Salve, volevo dire per quanto riguarda le unghie, io ho un problema, in pratica mi si sfaldano soprattutto quelle della mano destra, ma quello che noto è che praticamente si sfaldano proprio alla fine dell'unghia, sul, diciamo, il lato esterno dell'unghia. Sì. Sì, e quindi volevo sapere come mai. Dottoressa Lorenzi, eccola qua, la fragilità, cruccio femminile. Già. Quello che urea, giusto? Bravissima. Quella che lei descrive però è abbastanza sintomatico, vede, cioè si rovinano in particolare le unghie della mano destra, e immagino che sia la mano dominante, quindi quella che la signora usa di più nelle sue attività quotidiane, e soprattutto i bordi, quindi che sono quelli in realtà esposti più facilmente ai traumatismi. In termine medico questa particolare tipo di fragilità è definita onicoschizia lamellina. Mamma mia, che nome! Quell'amellina ci piace di più, ma... È lamellino proprio perché immagini tante lamelle, no? Sì. Che si sollevano. Allora, sono chiaramente delle unghie che vanno tenute particolarmente corte. Sì. Poi chiaramente bisognerebbe indagare sul tipo e di attività quotidiane che la signora svolge. Chiaramente, e cercare di tenerle corte proprio per proteggerle dai traumatismi, e poi sì, idratarle e utilizzare questi prodotti, come dicevo, questi smalti, che sono in realtà degli smalti